Ogni tanto me lo dicono che sono un pessimista e io mi arrabbio sempre. Io sono un ottimista. Devo e voglio esserlo. Lo odio il pessimismo, l'ho sempre odiato e ora più che mai. Mentre sto ancora abbracciando la mia bambina davanti al suo liceo classico, circondati dall'allegria, dall'entusiasmo, dall'energia, dal futuro. Però non posso fare a meno di chiedermi che lavoro andranno a fare i nostri figli e le nostre figlie. Riusciranno in qualche modo a non finire impaniati nella girandola di quegli impieghi finti che avviano e finiscono sempre diversi e pagati pochissimo, e non formano e non impegnano né loro né l'azienda che li assume? Gli basterà sentirsi liberi solo di poter passare da un misero, temporaneo lavoro di merda a un altro misero, temporaneo lavoro di merda, senza mai imparare nulla e diventare così perfettamente intercambiabili, perfettamente sostituibili, merce anche loro? Ma che vita è questa? Quale società e quale futuro potranno mai scaturire da un'intera generazione allevata nella barbarie di un'imitazione di democrazia, costretta a rincorrere un simulacro di posto di lavoro? Quali manufatti impareranno mai a produrre questi nostri giovani continuamente sradicati, apprendisti perpetui d'una vita lavorativa che per loro sembra non voler cominciare mai? Quale potrà essere la qualità del loro impegno, del loro lavoro? Li abbiamo lasciati per anni davanti alla televisione a guardare cazzate su cazzate, ad assistere attoniti all'affermazione pubblica di incapaci e mentecatti e ladri confessi, mentre intorno a noi l'economia avviava a crollare, prima lentamente e poi a rotta di collo. Perché mai oggi una qualsiasi impresa dovrebbe assumerli, invece di aprire una filiale o una fabbrica nel lontano Oriente, dove i loro motivatissimi coetanei le costerebbero la metà? Cosa gli abbiamo insegnato di importante? Cosa sanno le nostre figlie e i nostri figli in più dei cinesi? L'Italia non fallirà, no, ma si dovrà avviare a fare giustizia di qualche idea scintillante e insostenibile, di molte persone il cui successo passato impedisce di vedere lucidamente il futuro, delle illusioni da quattro soldi che sono state sparse per anni davanti ai nostri piedi, del fantasma più ingombrante e rumoroso di tutti, il nostro passato. Dovremmo avere il coraggio di metterlo da parte una volta per sempre. Forse anche di provare a dimenticare quel ruggente mondo perduto nel quale vivere e lavorare poteva essere incomparabilmente più facile, libero e fruttuoso e bello. Sì, bello, di quanto lo sia oggi. Nel nuovo pianeta tagliente che ci è stato consegnato, dove le regole sono diventate legione e spesso si ha la sensazione che vengano create contro di noi, il ricordo delle selvatiche, sbrigative, efficacissime lezioni di vita dei nostri padri e delle nostre madri può farci più male che bene. Il futuro non è più un'immensa autostrada vuota e l'economia non è più una rombante Ferrari a 12 cilindri. A noi, alle nostre figlie e ai nostri figli, è toccata in sorte una stradina stretta e siamo al volante di un'utilitaria ibrida in mezzo a un traffico infernale. È una vita senza ieri quella che ci apprestiamo ad affrontare nel XXI secolo. Ma poteva andarci peggio. Ai nostri bisnonni toccò la prima e ai nostri nonni la seconda guerra mondiale. Non c'è più tempo per lamentarsi, per intenerirsi a ricordare l'odore della lana. A dirla tutta, non c'è mai stato. Ricorda con struggimento il passato solo chi teme il futuro. E questo davvero non possiamo più permettercelo. Io di certo non posso e non voglio più permettermelo di temere il futuro. Lo affronterò e vada come vada. Al passato, però, vorrei dare l'addio che merita.